2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati o benvenuti, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Come sempre siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica dopo il GR delle 13. Questa settimana Denver, negli Stati Uniti, ha ospitato la Supercomputing Conference, che è un appuntamento molto importante per il supercalcolo. E come sempre è stata annunciata la classifica, o meglio l'aggiornamento della classifica dei primi 500 sistemi di supercalcolo nel mondo. La notizia è che la Cina ha superato per la prima volta nella storia gli Stati Uniti con 202 supercomputer contro 143. E pensate che tutto è avvenuto in appena 6 mesi, perché questa classifica viene aggiornata 2 volte all'anno. Perché è importante questa classifica? Perché esiste una relazione fra la capacità di un paese di essere competitivo e la quantità e la potenza dei centri di calcolo che supportano sia la ricerca universitaria che la ricerca industriale. Quindi, prima la Cina, secondo gli Stati Uniti, il Giappone è al terzo posto con 35 supercomputer. Comunque c'è un divario incredibile tra questi paesi. Pensate, Cina 202 supercomputer, Stati Uniti 143. Certo, non vale solo il numero, dipende anche quanto sono potenti, ma la Cina ha i primi 2 supercomputer al mondo. Poi terzo posto staccato il Giappone con 35 supercomputer, seguito dalla Germania 20 sistemi, la Francia ne ha 18, la Gran Bretagna 15, noi italiani abbiamo 6 supercomputer, insomma dovremmo averne un po' di più, però insomma siamo in questa classifica, abbiamo molte macchine tra i primi 100 posti. Allora, per quanto riguarda le singole macchine, i primi 2 posti sono occupati, come dicevo, da supercomputer cinesi, circa un anno che sono arrivati alla posizione numero 1. Al terzo posto c'è un sistema installato al Centro Nazionale di Supercalcolo Svizzero, nella Svizzera terza posizione, molto prestigiosa. Quarto posto per il Giappone, mentre il Titan americano, che fino a poco tempo fa era il numero 1, è al 5° posto. Il computer più potente italiano, il supercomputer più potente italiano, è il Marconi, che è installato al Cineca di Bologna, che è al 14° posto. Comunque, se volete guardare questa classifica molto interessante, potete andare su top500.org. Adesso abbiamo alcune notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News. Digital News. La digitalizzazione esiste ed è molto potente anche nel settore farmaceutico. L'agenzia americana che si occupa della sicurezza sia del cibo che dei medicinali ha autorizzato l'uso della prima pillola digitale. Però questa tecnologia è stata creata da una società che io seguo da un po' di tempo, che si chiama Proteus Digital Health. E la pillola è stata invece confezionata dalla casa farmaceutica giapponese Otsuka. Allora, questa pillola ha un sensore che si attiva a contatto con i succhi gastrici e trasmette un debole segnale che viene intercettato da uno speciale cerotto che il paziente deve mettersi sulla pancia. Questo sensore è microscopico ed è fatto di un materiale che si può mangiare. Quindi nessun problema per la salute. Ovviamente il cerotto è in grado di connettersi ad uno smartphone via Bluetooth e in questo modo si sa se uno ha ingerito la pillola, ma si potranno avere anche altre informazioni. Parliamo di Qualcomm, che ha appena rifiutato un'offerta da Broadcom. Magari avete seguito le notizie di questa offerta di Broadcom su Qualcomm, ma a parte questo, Qualcomm ha annunciato un interessante investimento nella cinese SenseTime, una startup che si occupa di intelligenza artificiale ma soprattutto di riconoscimento facciale. Questa è una tecnologia molto richiesta non solo dai consumatori ma dai governi di tutto il mondo. Questa SenseTime punta a raccogliere entro fine anno 500 milioni di dollari, che sarebbe il maggior investimento di sempre in una startup di intelligenza artificiale. Parliamo di Spotify, che ha comprato la svedese Soundtrap, che mette a disposizione una piattaforma online per registrare musica anche con altre persone, tutto sincronizzato in tempo reale. Secondo Soundtrap è come avere uno studio di registrazione online. Adesso non esageriamo, gli studi di registrazione hanno strumentazioni piuttosto sofisticate, però è sicuramente un modo per fare delle registrazioni, magari per i primi anni in cui una band suona, uno sta a Parigi, l'altro sta a Londra, l'altro sta a Tokyo, e si può fare una bella registrazione tutti assieme. Questo vale ovviamente anche magari in alcuni paesi sparsi per l'Italia, uno in montagna, uno in città e l'altro in campagna, si possono registrare e fare tutte le registrazioni online. Interessante, molto interessante. Allora, è disponibile da questa settimana il nuovo browser della Mozilla Foundation, finora si chiamava Firefox, adesso si chiama Quantum, è bellissimo, ben fatto, leggero, molto veloce, ve lo consiglio caldamente. Allora, i due programmi per navigare su web, anche da mobile, che vi consiglio al momento sono appunto Quantum della Mozilla Foundation e il che è il successore appunto di Firefox, e Brave, scritto Brave, Brave, coraggioso. Entrambi attenti alla privacy, soprattutto Brave ha una serie di funzionalità molto molto attente e pensate per proteggerci da occhi indiscreti, soprattutto dai siti che ci tracciano le nostre abitudini, quindi Quantum, scritto Quantum con la Q, e Brave, provateli, molto molto molto belli. Allora, non è ancora chiaro quando sarà operativo in Italia il nuovo operatore mobile di telefonia mobile della francese Iliad, che in Francia si chiama Free Mobile, ma la società ha annunciato questa settimana di avere già assunto 70 persone nel nostro paese, soprattutto a Milano e Roma, e altre verranno assunte nei prossimi mesi. L'offerta commerciale dovrebbe arrivare tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2018. La low cost della telefonia mobile punta a conquistare il 25% del mercato italiano. Quindi insomma, un obiettivo piuttosto importante, ma vedrete che quando arriverà saranno problemi per tutti gli operatori e si scatenerà una guerra di tariffe. Un'ultima notizia riguarda una segnalazione, perché abbiamo parlato recentemente di nuovi smartphone top di gamma che stanno arrivando sul mercato italiano. Per quanto riguarda Android, si aggiunge anche il nuovo OnePlus, il 5T, che sarà in vendita dalla prossima settimana a partire dal 21 novembre con prezzi a partire da 599 euro. Sono anche alcune notizie che riguardano il settore automobilistico. La prima arriva dal Parlamento europeo, che ha approvato una risoluzione su proposta del deputato tedesco Dieter Lebrecht-Koch per rendere obbligatori sulle automobili in vendita in Europa i sistemi di guida assistita, come il riconoscimento del pedone, la frenata automatica, il cruise control adattivo che mantiene la distanza di sicurezza e in caso di emergenza frena, e anche il mantenimento della corsia. Tutti i sistemi ormai disponibili su, almeno come optional, su molte automobili, su alcune automobili sono già di serie. Ricordiamo che la risoluzione del Parlamento europeo non ha alcun valore, ma è interessante che un'ampia maggioranza dei deputati europei sia favorevole a queste tecnologie, che abbiano capito che sono importanti per ridurre il numero di morti sulle strade, o comunque in generale il numero di incidenti. Quindi ricordiamo, perché probabilmente avrete letto da qualche parte toni trionfalistici di alcuni che forse non hanno capito e non sanno che le risoluzioni del Parlamento europeo servono come moral suasion, e poi da lì andrà attivato un iter che è auspicabile arrivi ad una legge, però tutto va fatto in accordo con il Consiglio europeo, insomma la Commissione europea, e quindi la strada è molto lunga, però è un primo segnale interessante. A proposito dell'evoluzione del settore auto, altre tre notizie di questa settimana. La prima riguarda l'annuncio di Volkswagen che investirà, l'hanno già detto alcune volte, ma questa è una notizia che arriva dal board dell'azienda, investirà entro il 2022 34 miliardi di euro su auto elettriche, sistemi di guida autonoma e servizi connessi alla mobilità. Per quanto riguarda le auto elettriche, Elon Musk ha presentato un gigante che si chiama Tesla Semi, un tir elettrico con 4 motori, 800 km di autonomia e un'accelerazione da 0 a 100 in 5 secondi. Dovrebbe essere prodotto dal 2019, però attenzione, perché quando Elon Musk parla a volte le spara, se non proprio grosse, comunque fa un po' di annunci molto marketing. Sicuramente Tesla sta passando un momento complicato per l'avvio della produzione della serie 3 e non tutti i programmi sono stati rispettati, e quindi vedremo poi se anche la produzione di questo camion, di questo tir, verrà rispettata. Però è comunque un interessante, e sicuramente Tesla ed Elon Musk sono stati uno degli acceleratori della elettrificazione della propulsione elettrica nel settore automobilistico. Un'ultima notizia che riguarda il settore auto arriva dal gruppo francese PSA, che ha annunciato lo sviluppo di una piattaforma per l'auto connessa assieme a Huawei, e anche quello dell'auto connessa è un mega trend che vedremo sempre più spesso nei prossimi anni. Adesso parliamo di immagini televisive e cinematografiche, e parliamo di una tecnologia che ormai è diventata molto popolare sia per quanto riguarda l'illuminazione, di cui parleremo tra poco nel corso di 2024, ma anche in ambito televisivo, non ancora in ambito cinematografico, ovvero parliamo di LED. Saluto Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale dday.it. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Parliamo di televisori anche in un periodo in cui si riparla di televisori, perché stiamo commentando, l'abbiamo fatto anche in altri programmi di Radio 24, lo fate voi su dday.it, dei televisori che probabilmente non sappiamo ancora in quale quantità, quanti milioni di italiani dovranno o potranno cambiare il televisore, visto il cambiamento tecnologico, ma parliamo di una cosa che accadrà non prima del 2020. 2020-2022 è la finestra dei cambiamenti. Esatto, dovuto al passaggio di tecnologia al digitale terrestre numero 2, ma avremo altre occasioni per, certo, per parlarne. Quindi state tranquilli, continuate a guardare il vostro televisore. Ma il momento è interessante, perché ci sono alcuni cambiamenti tecnologici non alle porte ma all'orizzonte. Giusto un punto della situazione ad oggi, parlando di tecnologia di televisori, ci sono sostanzialmente due tecnologie? Assolutamente sì, sono l'LCD, quindi cristalli liquidi, tecnologia più matura che ormai è arrivata a essere stabilissima, su cui si è fatta molta ricerca, e sono praticamente tutti i TV dalle dimensioni anche molto piccole, anche gli schermi che abbiamo sullo smartphone in molti casi, quasi in tutti i casi, fino anche alle grandissime dimensioni di schermo, 75, cioè, e oltre. Cioè la tecnologia più diffusa. È la tecnologia nettamente più diffusa, è quella più stabile, più matura, che, lo diciamo spesso ma lo ripetiamo ancora una volta, si chiama cristalli liquidi. Molte volte viene chiamata LED semplicemente perché la tecnologia cristalli liquidi richiede una fonte di luce, cioè quindi una retroilluminazione cosiddetta, e ormai da anni la retroilluminazione, come succede anche nell'illuminazione domestica ormai, e viene fatta con dei LED. Quindi i LED sono dei LED normalmente bianchi che forniscono la luce per retroilluminare il pannello, per cui spesso vengono semplificato il nome dicendo è un TV LED, ma in realtà è un TV LCD retroilluminato a LED. E questa è la tecnologia sicuramente più diffusa, più stabile, e anche per certi versi quella che garantisce i minori prezzi, anche quella forse più economica. Sì. Da qualche tempo, e sempre con più insistenza, si è affermata sul mercato anche la tecnologia OLED. Attenzione a questa O davanti, niente a che vedere con i LED. È una tecnologia diversa, in cui le singole celle del display sono in grado di emettere autonomamente la propria luce, grazie a un processo fotochimico, insomma, in buona sostanza, adesso semplifico molto, fotoelettrico e fotochimico, e questo fa sì che non serva una fonte di retroilluminazione, quindi non c'è una lampada o delle lampadine o dei LED, ma ogni pixel si illumina o si spegne a seconda della necessità. Questa tecnologia OLED dà una serie di vantaggi, perché non c'è la cosiddetta luce parassita residua, quindi non c'è come succede sui peggiori LCD, quindi un nero molto sbiadito, dovuto al fatto che anche quando le celle dei cristalli liquidi sono chiuse, un po' di luce trafila in ogni caso, e quindi non ho un nero profondissimo. In questo caso, quando il pixel è spento, quindi è completamente nero. Lo svantaggio per certi versi è che tanto è una tecnologia più giovane, quindi dobbiamo vedere ancora come evolve. Vero che per essere giovane avere già una qualità d'immagine come quella che si vede su queste TV è un risultato fantastico. Comunque giovane di qualche anno, si giovane di qualche 4 anno. 5 anni. Beh, sì, contro diciamo i 20 di cristalli liquidi, certo. Quindi insomma è chiaro differenza. Che ci sono c'è molta differenza. E l'altro problema è che in realtà, a parte gli AMOLED disponibili sui migliori smartphone, quindi molto piccoli, ma sono una tecnologia leggermente diversa, i TV OLED sono disponibili soltanto dai 55 pollici in su. Normalmente i tagli sono 55, 65, 77 pollici. Quindi il primo TV di casa, quello del salotto, ma molti anche oggi in salotto non hanno un 55 pollici, hanno un 49 o addirittura chi ha un 32. E vieppiù in cucina, nelle camere da letto, sì, sì. Evidentemente l'OLED non ha diritto di cittadinanza al momento. Sì, sì, non c'è. Queste sono le due tecnologie. Ognuna, come dicevamo, ha i suoi vantaggi. I suoi svantaggi. Sì, diciamo che non esistono più, lo diciamo a chi si fosse perso qualche puntata, i TV plasma. Non esistono più i TV plasma. Cioè, la tecnologia plasma è stata abbandonata, non viene più prodotta. Purtroppo, perché aveva comunque delle prestazioni in qualità d'immagine molto valide, ma sarebbe stato molto complicato e molto costoso realizzare dei pannelli in risoluzione 4K, che è la risoluzione che ormai è diffusa sempre più su tutti i TV. E quindi questo ha un po' compromesso il futuro del plasma, tenendo anche conto il fatto che nel frattempo i prezzi degli LCD e successivamente nelle ultime stagioni anche degli OLED sono scesi molto, anche probabilmente sotto la soglia dei migliori plasma. E quindi è una tecnologia che più per motivi economici che per motivi tecnologici è venuta meno. Benissimo, io però a casa, ma non so tu, continuo a guardare plasma, sì, finché si può, finché magari ci sarà una disponibilità di 4K così elevata per cui vale la pena investire sul 4K. Dici di contenuti? Sì, 4K, sì, di contenuti, sì, certo. Che ancora è molto limitata. Esatto. Senti, anche senza approfondire, perché poi vogliamo parlare di quello che c'è all'orizzonte, quello che si sta ricercando all'interno dei laboratori e si sta sviluppando nei laboratori, possiamo dire se tu fai il tifo più per l'LCD o per l'OLED o no? Allora, da buon professionista io non dovrei fare tifo. Ci sono semplicemente occuparmi dei fatti, però ci sono degli aspetti che sono evidentemente rilevanti. Il nero e di conseguenza la qualità d'immagine dell'OLED sembra vincente in questo momento. La versatilità dell'LCD e una certa affidabilità di questo tipo di tecnologia fa propendere anche per l'LCD, quindi no, è una gara aperta. Se ci fosse una tecnologia nettamente superiore all'altra, a costi nettamente più convenienti, non ci sarebbero due tecnologie sul mercato. Sì. Se ci sono è perché in questo momento nessun produttore può fare a meno, per esempio, dell'LCD. Perché se vuole fare un 32 pollici può farlo soltanto in LCD. C'è un altro tema, la produzione dei pannelli. In questo momento la produzione dei pannelli OLED è fatta soltanto da LG Display, che ha una capacità produttiva ampia, ma comunque finita. Se volessimo fare, oggi gli OLED sono mal contati, diciamo il 10% dei TV, ma forse anche meno, quelli in vendita, anzi direi forse meno, se noi volessimo fare il 100% di TV OLED non ci sarebbero le fabbriche, non ci sarebbe la produzione. Quindi cos'è meglio? È meglio ogni TV, ma questo vale per tutti i prodotti di elettronica, ogni prodotto che è sul mercato ha una sua ragion d'essere, ha un suo target, magari è un target di prezzo, magari è un target di funzionalità, magari è un target di semplicità d'uso, magari un target di affidabilità, ma comunque ogni prodotto ha un suo target e i TV non sfuggono a questa regola. E quindi onestamente è inutile che io dica qual è il TV migliore per me, ma è più interessante capire qual è il TV per ognuno delle persone che ci sta ascoltando, sì. Qual è il TV migliore. Senti, c'è un tema interessante nell'industria che ci dà il là per poi parlare dell'argomento di oggi. Samsung, che è uno dei principali produttori al mondo, sicuramente in Italia ha la quota di mercato maggiore, non investe negli OLED per tanti anni. Cioè, ha investito? Ha investito, però non ha realizzato un prototipo, più di un prototipo funzionante, non è mai diventato un prodotto commerciale, si è visto alle fiere, funzionava benissimo, era bellissimo, però ha deciso che quella non fosse la strada. Esatto, mentre LG ha pesantemente investito, crede tantissimo nell'OLED e per anni, ancora oggi, ma ormai la risposta ce l'abbiamo, molti si domandavano ma perché Samsung non esce con un prodotto OLED? Perché tanto più crede che in qualche modo è un po' accerchiata, nel senso che prima OLED era soltanto un prodotto di LG, adesso LG Display appunto sta vendendo i pannelli a altri produttori e OLED sono anche TV Sony, Panasonic, Loewe, e Philips e così via, cioè ci sono ormai diversi produttori che offrono, hanno in gamma, alcuni le posizionano proprio come top di gamma dei TV con pannello OLED. Sì, sì, e poi devo dire che la tecnologia OLED è riuscita, non so per quali motivi, a farsi riconoscere da molti consumatori come il premium. Molte persone che insospettabili mi dicono, senza che nessuno gli abbia detto nulla, ah beh, fantastico, il migliore in assoluto è l'OLED. Ecco, qual è invece la tecnologia all'orizzonte estremamente interessante? Allora, Samsung sta facendo un ragionamento che dal punto di vista di Samsung è assolutamente condivisibile. Samsung è leader di mercato nel mondo dei TV. In Italia vi è più, ma nel mondo. E quindi, gioco forza, facendo LCD, è leader anche dei TV LCD. Samsung è convinta che l'LCD abbia ancora moltissimo da dire, effettivamente vedendo anche i risultati delle ultime generazioni di TV ha molto da dire, certo bisogna andare su TV di fascia medio-alta per avere delle prestazioni ottime e che questo possa farlo, cioè possa l'LCD possa avere un ruolo fino all'introduzione di una nuova tecnologia di display. Quindi il ragionamento che Samsung fa è: attenzione, OLED non è un punto d'arrivo, è un passaggio da cui si può passare oppure no, ma l'orizzonte, l'obiettivo è un altro, ed è quello dei TV LED. Allora, qui grande confusione, esatto. Ma come? Torniamo ancora ai TV LED. Adesso, ovviamente poi ognuno dà il proprio nome di fabbrica alle tecnologie, ma in buona sostanza l'idea è quella di avere tutti i vantaggi del LED, quindi di una fonte inorganica, la O di OLED sta per organic, quindi c'è un materiale diciamo organico che nell'orizzonte temporale di utilizzo di vita del TV non si dovrebbe degradare. Ricordo che non esiste mai in passato una tecnologia di display che non si degradi nel tempo, basti vedere i display, anche LCD delle stazioni, degli aeroporti, quelli che sono accesi 24 ore su 24 per vedere che dopo un po' di anni sono appunto stampati, come si dice in gergo tecnico, quindi c'è una certa persistenza dell'immagine, perché ovviamente qualsiasi materiale organico o inorganico col tempo si degrada. Ma secondo Samsung l'OLED si degrada più velocemente, tutto da dimostrare ovviamente, ma non abbiamo controprove. Sì, comunque no, nella vita normale di un televisore in casa non accade. Infatti. Il futuro è quello di avere tutti i vantaggi dell'OLED e tutti i vantaggi dell'LCD, quindi di una fonte luminosa molto intensa, più intensa di quanto possa offrire l'OLED come il LED, però anche con un pannello cosiddetto self-emitting, quindi un pannello che emetta spontaneamente la propria luce, non abbia bisogno di una retroilluminazione. Il vantaggio è quello che dicevamo prima, un pannello self-emitting ha un nero completamente nero, certo. Quindi quando il pixel è spento, punto. Quindi se sono in una sala abbastanza oscurata, sì. Quando mi parte un'immagine, un fiore su fondo nero, io vedo questo fiore galleggiare nell'aria, sì, non distingue i contorni dello schermo, sì, sì. Come invece succede con gli LCD, sì, sì. Così come succede invece sugli OLED di oggi, sì. Stiamo parlando di una tecnologia che non esiste ancora in questa forma in cui la stiamo raccontando, cioè non ci sono ancora i televisori prototipi, esatto. Prototipi molto, però un accenno a questo tipo di tecnologia c'è già. Io pochi giorni fa ti ho telefonato mentre ero davanti a questo pannello pubblicitario bellissimo, luminosissimo, con dei bellissimi colori, un pannello fatto proprio con questa tecnologia, proprio si chiamano LED wall, muri di LED, quindi non retroilluminato, con tanti pixel, tanti puntini che erano dei piccoli LED. Infatti, noi sappiamo che l'immagine in tutti i display viene costruita da una tripletta di subpixel, cioè ogni pixel è composto da una tripletta di celle, una rossa, una verde e una blu. A seconda di come vengono accese queste celle, modulate queste celle, vengono sintetizzati tutta la gamma di colori. E questo avviene negli LCD, avviene negli OLED, avveniva nei plasma, avveniva anche nel tubo catodico, tanto per intenderci, TV a colori ovviamente. E anche nel caso dei LED wall o comunque dei TV LED c'è una tripletta di subpixel. Peccato che questi subpixel siano effettivamente delle micro lampadine LED. Immaginatevi come una lampadina LED di quelle che abbiamo in casa, ma piccola, piccola, piccola, sì, piccola, sì. Piccola. Meno di un millimetro, è proprio, sì, no, proprio infinitesimamente la testa di uno spillo, sì, anche sì, su schermi giganteschi, quindi tipo i LED wall. E una verde, una rossa e una blu, modulate opportunamente, creano, sì, tutti i colori, e tutti questi pixel messi insieme creano l'immagine, anche milioni di questi, sì, pixel, sì. Beh, no? Ad esempio, quando ci sono i concerti, grandi spettacoli, e vediamo degli schermi giganteschi, non sono schermi con dei proiettori, sono fatti così, con tanti anche, piccoli LED. Anche in tutti gli studi televisivi, oramai. Tutte le pareti di fondo dove non c'è un fondale statico, ma oramai sono sempre meno quelli statici. Non lo so, adesso prendo un esempio che mi viene in mente, ma chi segue, non so, X Factor, tutto il palco di X Factor dietro ha una serie di muri di schermi LED che infatti, sì, fanno, sì, vedere le immagini molto bene, sembra un'immagine, sembra un TV oggettivamente molto molto grande. L'idea, tornando un attimo al mondo dei TV, è quello di replicare questa cosa che già c'è nel mondo professionale e miniaturizzarla ulteriormente, riuscendo ad arrivare a mettere 8 milioni di pixel, che sono la risoluzione 4K, sono 8 milioni di pixel, ovvero sia 24 milioni di subpixel, quindi 24 milioni di lampadine, su un pannello televisivo. La sfida è tutta lì, perché c'è un tema di miniaturizzazione, c'è un tema di elettronica, di pilotaggio di queste 24 milioni di lampadine contemporaneo, cioè, è una cosa, sì, sì, molto, sì, complessa. Certo, ma perché nell'istante in cui si riuscisse, e sì, si riuscirà, sì, perché sicuro, questo oramai ci sono studi abbastanza avanzati, avremo un pannello che ha i vantaggi dell'OLED, cioè il pixel nero che si spegne completamente, e però una luminosità di picco incredibile, molto più alta di quella anche degli OLED, probabilmente, anzi sicuramente molto più alta volendo anche degli LCD attuali, che ha il vantaggio di essere un'arma molto importante per le immagini HDR, quindi quella ad alta gamma dinamica che sempre più si stanno diffondendo. Certo, perché l'obiettivo finale è quello di creare dei pannelli, quindi dei televisori, tali per cui se io sto ad una distanza di un paio di metri, 2-3 metri, non vedo i pixel. Mentre io, quando ero davanti a questo pannello pubblicitario, lo dico anche dove, all'aeroporto di Roma, se voi andate in barchi o arrivi nazionali, vedete queste quattro colonne che sono foderate con questi LED wall, bellissimi devo dire, ma se uno va vicino, anche se sta a un metro, vede i pixel. È tutto, deve essere adeguato alla dimensione dello schermo. Sì, esatto. Se noi pensiamo a uno schermo anche molto, molto, molto grosso, ma diciamo per una fruizione televisiva, e quindi non per una pubblicità o una cosa simile, non sarà grande come il LED wall che c'è all'aeroporto. Sì, sì. Il LED wall che c'è all'aeroporto è dimensionato per essere visto a alcuni metri di distanza. E poi c'è LED wall e LED wall. Cioè, sempre, ah, certo, più ci sono LED wall più economici. In realtà sono delle tessere come di un mosaico, cioè sì, sì, se uno va dietro questi muri di LED trova una matrice di tante piastrelle di fatto che sono collegate l'una all'altra, e quindi si può comporre uno schermo di dimensioni, volendo anche infinite teoricamente, poi c'è ovviamente un limite, e queste piastrelle sono disponibili con risoluzioni più basse per applicazioni più economiche o con risoluzioni anche molto alte per applicazioni assolutamente, sì, di grande prestigio. Se si visitano, come facciamo noi, le fiere di settore e si vedono i migliori LED wall che sono dimostrati molto costosi, davanti a un muro di 5-6 metri di 5-6 metri di larghezza, a un metro di distanza non si riesce a distinguere sì. Pixel. Siamo già molto vicini, infatti. Comunque, giusto per farci capire, quando molti di voi avranno visto, se non in diretta o dal vivo, i più fortunati, più appassionati, diciamo così, il concerto di Vasco Rossi, c'erano delle pareti dietro al palco fatte di queste matrici, di questi tasselli che formano degli schermi giganteschi. Forse sono stati tra gli schermi più grandi realizzati negli ultimi anni, perché erano cose alte 20 metri, insomma, sì, veramente impressionanti. Luminosissimi. Esatto. E molto contrastati, quindi questo è il grosso vantaggio. Cose che con la proiezione, come si faceva prima, con anche potentissimi videoproiettori, non era ottenibile. Perché il nero, allora, quando qualcuno dice, ma è una bella videoproiezione, però la vedo un po' slavatina l'immagine, non è bella contrastata. Sì. Allora io spesso dico, va bene, vediamo le condizioni in cui tu proietti a casa tua. Faccio spegnere tutte le luci, mettiamo la stessa condizione, ma magari un po' di luce arriva dalla cucina, un po' di luce arriva dalla tapparella che è socchiusa. Ecco, vedi lo schermo col proiettore spento? Quello è il tuo nero massimo. Cioè, il proiettore può aggiungere luce, non va in sottrazione, non è che risucchia la luce. Quindi quando io vedo e vedo lo schermo grigiastro, perché lo vedo spesso quando la sala non è completamente oscurata, ma basta che il soffitto e le pareti siano bianche per avere molti riflessi, ecco, in quel caso quello è il mio massimo nero. Poi l'occhio si abitua e quindi si, come dire, adatta al contrasto, ma la realtà è che lo schermo di proiezione, essendo bianco, quasi sempre bianco, sì, poi ci sono altre applicazioni, ma comunque quasi sempre bianco, tende a non offrire un nero veramente profondo. Questi LED wall invece posizionano la punta di spillo del LED su un fondo che è fatto apposta per essere nero assorbente. Cioè, per esempio Sony, che ha una soluzione molto bella, si chiama Cledis, ma vabbè, è la soluzione di Sony, Samsung c'ha la sua, altri produttori hanno la loro. E proprio ci tiene a dire che la superficie emittente del pixel, quindi la superficie del pixel, è piccolissima, è l'1%, il 2% della superficie totale, e il resto della superficie totale del pannello è un nero molto assorbente. Quindi noi vediamo uno schermo, quando è spento, nero profondo, un nero antracite proprio, un qualcosa di assolutamente scuro. Quando il LED si accende, il LED è così luminoso che praticamente occupa nel nostro occhio tutto lo spazio del gap nero e quindi si accende completamente, e noi non vediamo più quel nero attorno. Il risultato è che il nero è veramente profondo, come deve essere, molto meglio che nella videoproiezione. Sì, sì. E la luminosità è molto più alta di quella ottenibile con la videoproiezione, e di qui si aprono molti scenari. Esatto, perché uno di questi scenari mi ha fatto dire, ma dovremmo parlarne, perché tu mi hai detto uno degli scenari sarà il cinema. Prima, molto prima dei TV micro LED. Pensa a te, cioè, che vedremo. Tu mi stai dicendo che presto, poi vediamo quanto presto, vedremo schermi cinematografici fatti con i LED, quindi non ci sarà più il proiettore, la cosa anche digitale come quelli di oggi. Che per molti sarà una notizia, è che già esistono, non in Italia ancora. Sì, non in Italia. Già esistono, e quindi non si parlerà più di proiezione, sala di proiezione. Molti troveranno la cosa molto poco poetica e molto svilente rispetto alla liturgia della pellicola, del cinema, di quel fascio di luce che un po' si vede nella polvere della sala, un po' vintage, diciamo così. Ma il risultato di questi schermi, che poi possono avere altri problemi, ma comunque il risultato ottenibile con questi schermi è un qualche cosa che è totalmente rivoluzionario rispetto alla proiezione cinematografica. Quindi, che ne so, un cinema con un grande schermo, senza arrivare di base, non so, anche cose di questo più tipo. Sì. Cioè, vuol dire che quello sarà proprio uno schermo fatto con tanti tasselli LED. Sarà fatto con tante di queste mattonelle LED messe una a fianco all'altra senza gap, quindi non vedremo le mattonelle, vedremo uno schermo gigantesco, e su questo schermo gigantesco possono essere proiettati film o qualsiasi altro contenuto video. Forse non tutti sanno che la pellicola praticamente in sala non esiste più. I video, cioè i film che noi vediamo al cinema, sono sì proiettati, ma da dei videoproiettori, sono file video, normalmente in risoluzione 2K o 4K, quindi forse anche inferiore ad alcune cose che vediamo in TV, però anche lì non è importante la risoluzione rispetto alla dimensione dello schermo e basta, ma rispetto alla dimensione dello schermo in relazione alla distanza di visione. È chiaro che lo schermo è largo 10 metri e noi ci mettiamo su una risoluzione che è simile a quella di TV, però lo vediamo da 10, da 15 metri, quindi è tutto il progetto ottico, diciamo così, è gonfiato. Che vantaggi dà uno schermo di questo tipo? Beh, uno schermo di questo tipo innanzitutto può portare veramente lo spettatore nell'era dell'HDR, quindi dell'alta gamma dinamica. L'alta gamma dinamica non ne parliamo approfonditamente adesso perché è un'altra puntata. Ci metteremo 8 ore. Ecco, sì. Però il succo è la possibilità di riuscire a discriminare, a vedere contemporaneamente sullo schermo sia gli scuri molto scuri, e quindi leggere anche nelle zone d'ombra dell'immagine, e contemporaneamente avere anche una leggibilità, il fatto che non si brucino le luci molto chiare. Tipico caso, tenebre e finestra socchiusa, una torcia, una torcia. No? Quindi una fiamma, sì. No? In primo piano e un personaggio che avanza nelle tenebre. Ecco, in questo caso o le tenebre sono completamente nere, affogate, come si dice in gergo, oppure la fiamma è una macchia bianca completamente bruciata. Questo nel mondo della gamma dinamica standard. Nel mondo della gamma dinamica estesa, dove tutta la catena deve essere estesa, quindi sia le riprese, sì, che il trattamento dell'immagine, che la messa in onda se è TV piuttosto che il file, nel mondo HDR, in tutta la catena HDR ho una resa che è molto più vicina a quella dell'occhio e quindi è molto più realistica. Peccato che l'occhio è HDR assolutamente. Peccato che i proiettori facciano un po' fatica, perché la luminosità di picco dei proiettori non riesce a essere così incisiva e il nero non riesce a essere così chiuso. Noi, portando questo tipo di schermo al cinema, abbiamo una resa che è completamente nuova. È un cinema 2, 3, 4.0, non so a che numero siamo arrivati del cinema. Bellissimo, insomma. Però riporta le gerarchie giuste nel mondo della rappresentazione video, perché il cinema è sempre stato un po' più avanti della riproduzione domestica. Questa è una fase un po' strana in cui la pellicola non c'è più. Quindi anche le cose buone che c'erano della pellicola bisogna andare a prenderle in cinema selezionati che ancora decidono di proiettare la pellicola. Sì. Pochissimi. Arcadia a Melzo, vicino a Milano. Certo. Ancora lo fa. Consigliatissimo. Non sempre, occasionalmente, quando ci sono i film che si prestano. Quindi si fa di fatto una videoproiezione non drasticamente diversa nelle tecnologie di quella che si potrebbe fare a casa con un buon videoproiettore, ma per certi aspetti, spesso anche solo la risoluzione, ma poi non solo la risoluzione, ma anche per esempio le luminosità di picco e queste cose qua, inferiore a quello che si può fare con un TV. E questo crea un capovolgimento. Il cinema è sempre stato più avanti, il Dolby Surround è arrivato molto prima al cinema e poi nelle case. L'alta definizione era nativa sulla pellicola e poi l'abbiamo vista nel video. In questo momento c'è questa piccola confusione, non durerà tanto, nel senso che man mano ci sarà il rinnovo tecnologico delle sale cinematografiche, si passerà a questo tipo di schermo, perché di fatto è vero che sono costi anche molto importanti, ma i costi scenderanno, stanno già scendendo velocemente, e vuol dire di fatto eliminare la cabina di proiezione, cioè non c'è più la cabina di proiezione. Piccolissimo problema è cinema, questo bisogna pur riconoscerlo. I diffusori al cinema sono nel retroschermo, dietro lo schermo, che è microforato. È giusto, la gente non lo sa, ma se si va vicino allo schermo si vede che lo schermo è pieno di forellini. Da lontano non si vedono, ma questi forellini servono proprio per far passare il suono. Anzi, i migliori cinema sono pieni di diffusori dietro. Assolutamente, anche perché dietro ci sono i subwoofer, che ci sono soprattutto al cinema, e poi canale destro, sinistro e centrale. Anche dietro il grande schermo. Ecco, in questo caso non possono stare dietro, devono passare davanti. Quindi probabilmente sopra e sotto ci sono delle soluzioni da trovare. Samsung, che si sta proponendo insieme alle altre, insieme a Sony, insieme ad altre, proprio per l'allestimento di questi cinema, guarda caso si è comprata Harman Kardon americana, non molto tempo fa, grande multinazionale, un conglomerato dell'audio, diciamo, soltanto basta dire che ha in pancia JBL, che è probabilmente il principale produttore e diffusore di cinema, che sta studiando delle soluzioni ad hoc per avere una potenza acustica adeguata, una resa acustica adeguata, pur da diffusori che non possono più essere nel retroschermo. Sì, sì. E questo è il vero difetto di questa tecnologia per ora. Poi ascolteremo gli impianti, probabilmente anche con un processamento DSP del suono si potrà far sembrare suono come uscire non da sopra e da sotto, dalla bocca del protagonista. Senti, per concludere, quanto tempo ci divide da queste tecnologie, diciamo, un po' diffuse? Cioè, 2 o 3 anni, 5 o 10? Allora, vedremo i primi cinema fare scelte di questo tipo, secondo me, in un orizzonte abbastanza breve, quindi 3 anni. Samsung, a mio avviso ottimisticamente, ritiene di riuscire a coprire entro il 2020 con queste tecnologie il 10% del cinema mondiali. 2020? Secondo me è una pazzia. Un po' esagerato, sì. È una pazzia. Un po' di ottimismo, sano ottimismo, dell'entusiasmo delle aziende. Ma per il TV invece la 7 strada, anni. TV dovremmo aspettare ancora un po', perché quando vedremo uscire i primi apparecchi di questo tipo, presumibilmente, come è sempre stato, le prime generazioni, abbiamo in mente, diciamo, abbastanza fresca l'esempio dell'OLED. La prima generazione di OLED, che risale a qualche anno fa, 5-6 anni fa, la prima veramente disponibile commerciale, un pannello 55 pollici full HD, quindi non 4K, costava oltre 8.000 euro. Ecco, usciranno con prezzi di questo tipo e quindi saranno i prime generazioni esercizi di stile. I primi 2-3 anni saranno poi verranno così, messi a po', verranno messi a punto, ma se devo dire la verità, io credo che il futuro non per chi deve comprare un TV oggi, quindi non smettete di guardare i TV che state valutando di comprare, perché è un orizzonte temporale probabilmente più ampio, non questo TV, ma quello successivo ancora, probabilmente sarà un LED, almeno i TV più importanti. È lo stesso discorso che si potrebbe fare, per esempio, con le auto elettriche, a trazione elettrica, già sono disponibili per certi versi, ma hanno dei limiti di prezzo, per prima di tutto, di prezzo, poi di altro genere, autonomia, e quindi sappiamo che presto o tardi tutte le auto saranno probabilmente elettriche, ma ancora bisogna aspettare. Bene, molto bene, mi è piaciuta questa carrellata su questo nuovo orizzonte. Gianfranco, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie mille. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini e adesso parliamo di illuminazione, perché succederanno cose straordinarie nel mondo dell'illuminazione. Siamo all'alba di una vera e propria rivoluzione, perché la connettività, la sensoristica per arricchire le lampade, la raccolta di dati attraverso l'infrastruttura elettrica, tutte queste cose assieme sono la nuova frontiera, quella che io chiamerei la Internet of Lights, la Internet delle luci, la Internet degli oggetti nel mondo dell'illuminazione. E questo pone sfide sia ai produttori di tecnologia, ma anche a chi deve installare. I professionisti del futuro non si chiameranno più elettricisti, saranno tecnici che devono comprendere tutte queste trasformazioni, e probabilmente non tutti riusciranno a sostenere la portata di questa rivoluzione. Ne voglio parlare con Andrea Sasso, che è l'amministratore delegato di Iguzzini Illuminazione. Benvenuto a 2024. Grazie. Voi vi occupate di illuminazione in un segmento particolare, perché stiamo parlando di un segmento alto, illuminazione architetturale la chiamate voi, giusto? Esattamente, sì, ci occupiamo di luce architetturale. Quindi parliamo di grandi spazi, alberghi, ristoranti, aeroporti, eccetera, eccetera, fino a veri e propri musei o luoghi d'arte. Esattamente, noi con la luce miglioriamo il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e quindi abbiamo suddiviso in 6 grandi aree strategiche, chiamiamole così, o luoghi, che sono i luoghi della cultura, del lavoro, del retail, delle città, delle infrastrutture e quello che chiamiamo dell'hospitality and living. Allora, vorrei partire da una delle ultime, chiamiamole opere, che avete realizzato alla Cappella degli Scrovegni. Sì. Se siete già stati alla Cappella degli Scrovegni, oppure se non siete mai stati, a maggior ragione, vi invito ad andarla a visitare proprio da questo, dal mese scorso, ma diciamo da questa settimana, perché voi avete realizzato il nuovo sistema di illuminazione. Stiamo parlando di luce LED, però direi che possiamo mettere assieme due o tre elementi. Il primo è la luce LED, che ci permette di vedere le cose in un altro modo, con un'altra luce. Anzi, c'è chi dice che le possiamo vedere oggi queste opere meglio di quanto le poteva vedere Giotto. Esattamente così, il mio presidente lo dice e ha ragione, per definizione. Perché? Perché in effetti, se parliamo della Cappella degli Scrovegni e si entra dentro, si vede come ci sono due facciate completamente illuminate dalla luce naturale di allora in maniera diversa, no? Quindi sulla parte sinistra abbiamo sei grandi finestre e dall'altra parte non ci sono. Quindi è chiaro che lo spettatore si pone di fronte a una situazione che cambia con la luce naturale del giorno. È chiaro che la parete che contiene delle finestre è illuminata molto di meno rispetto alla parete opposta. E quindi questo già crea uno scompenso. Con la luce LED questo tipo di possibilità e con un controllo dell'internet degli oggetti, quindi l'internet of things, può essere ovviamente risolto, che è quello che esattamente abbiamo fatto. E che cosa c'entra la internet degli oggetti con le luci LED? Cioè che cosa avete realizzato che ci dà un po' un assaggio di quello che potrebbe succedere nel mondo dell'illuminazione? Ma sì, allora, da questo punto di vista che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato in contemporanea e anche grazie a uno spin-off dell'Università Politecnica delle Marche di Ancona, con un gruppo che si chiama Y-Sense, un collegamento fra i nostri apparecchi intelligenti e questi sensori ambientali di Y-Sense. Il sensore ambientale di Y-Sense è installato presso la Cappella degli Scrovegni, quindi praticamente legge la luce naturale che viene... Un po' come fosse un occhio esattamente, artificiale. Esattamente, e quindi risulta connesso a internet esattamente come il nostro apparecchio a LED intelligente. I due oggetti comunicano fra di loro in modo tale da dare sempre la migliore illuminazione possibile in qualsiasi momento al variare della luce naturale. Quindi praticamente la luce che noi vediamo all'interno della Cappella degli Scrovegni è sempre quella ottimale, perché si adatta alla luce che entra dall'esterno. Assolutamente così, è perfetto. E tutto ciò avviene perché questo sensore si connette ad internet, avviene secondo un algoritmo, da quello che avete spiegato, una elaborazione, e il vostro sistema poi pilota i LED. Esattamente, quindi i due apparecchi sono collegati, il nostro apparecchio LED intelligente è collegato con il sensore di Y-Sense e entrambi quindi permettono di fare sempre la migliore illuminazione possibile. Questo ovviamente ci vuole un po' di tempo e di dati per poter poi riempire di dati il contenuto dell'algoritmo e per poter sviluppare una regia luminosa perfetta. Assolutamente si può anche fare scegliere delle regie luminose predeterminate. Ah certo, questo ci dà un po' un assaggio di quello che potrebbe essere normale fra qualche anno. Assolutamente sì. Fra pochi o molti anni? Bella domanda. Bella domanda. E le cose accadono non troppo velocemente. Accadono, no? Non troppo velocemente, ma oggi la tecnologia sostanzialmente per fare queste cose ci sono tutte. Io credo che le sfide future nel nostro settore, in particolare in modo quelle che ci interessano noi delle Aguzzini, saranno molteplici. Quindi miniaturizzazione dovuta al LED, il comfort visivo, la molteplicità applicativa, ma anche la connessione. Se leggiamo tutti i giorni, in ogni mese si collegano oggetti collegati a internet, parliamo di miliardi di oggetti, e quindi ovviamente ci saranno due mondi che andranno a integrarsi, quello della gestione dei grandi dati e quello ovviamente della luce. E quindi questo secondo noi è un punto di domanda molto importante: chi dei due gestirà l'altro, oppure se potranno coesistere. Sicuramente è importante perché oggi la luce, con l'applicazione di sensori, può, sulla base di un'infrastruttura già collegata in rete e già collegata a internet, può gestire numerosi dati, semplicemente dalle persone che sono all'interno di una stanza, di un ufficio come in questo momento, piuttosto che magari leggere la temperatura o leggere tanti altri dati. E quindi con questo si possono poi avere delle possibilità applicative di business infinite, in teoria. Certo, quindi voi state dicendo, ad esempio, nel nostro studio, dove stiamo parlando in questo momento, ci sono quattro lampade, quattro punti luce. Esattamente. Voi dite, si potrebbero mettere dei sensori assieme a queste lampade, collegare questi sensori a un'infrastruttura o comunque ad un computer centrale, chiamiamolo così, al cloud magari, certo, e da lì fare tutta una serie di calcoli, deduzioni e automatizzare, che ne so, spegnere le luci quando ci si accorge che non c'è nessuno automaticamente. Assolutamente sì, e quindi per esempio regolare la temperatura, esatto, cose, rilevare il numero di persone e quindi che automaticamente possano non solo spegnersi o accendersi, ma addirittura regolare l'intensità della luce, che magari può essere anche così adattata alle reali esigenze delle persone. Mm-hmm. Per dare un esempio concreto, sempre in termini di connettività, ma anche in termini di applicazioni reali, recentemente abbiamo fatto un'installazione alla Royal Academy of Art a Londra, per cui abbiamo collegato circa 500 spot con un'applicazione Bluetooth, per cui semplicemente si possono con un click scegliere le regie luminose, quindi modificare il bianco che va da una luce calda a una luce fredda, quindi da 2700 gradi Kelvin fino a 5700, ovviamente nel rispetto delle luci e del restauro, se vogliamo anche senza distruggere o conservare le opere d'arte, e in questo modo praticamente un'applicazione luminosa senza fare degli interventi fisici. Dunque, vorrei approfittare per parlare dei vantaggi del LED. Sì. Allora, molti fortunatamente sono vantaggi che sono diventati anche popolari, cioè tutti ormai sanno che i LED consumano meno energia, quindi già questo è un primo vantaggio, ma ce ne sono tanti altri e forse gli altri non sono così ben conosciuti. Certo, è vero, ma ci sono anche alcune criticità. Sì. Che poi magari ti posso elencare. Allora, diciamo, prima di tutto il primo vantaggio è il bassissimo consumo, però c'è un elemento ancora a vantaggio del LED, che è la durata. Pensiamo che oggi negli interni, per esempio nelle applicazioni per interni, alcune luci possono arrivare a durare oltre 50.000 ore, che, diciamo, se ipotizziamo un utilizzo medio, possono tradursi in 10 anni. Cioè, addirittura chi dice che durino di più i LED? Per esempio, nell'illuminazione stradale abbiamo fatto anche noi degli impianti che durano circa 20 anni, quindi 100.000 ore. Altri vantaggi? Ma l'altro vantaggio potrebbe essere che con il LED la luce è diventata digitale e quindi, diventando digitale, può essere gestita da un sistema di controllo. Il LED è molto piccolo e quindi, essendo molto piccolo, ha permesso veramente di esprimerci da un punto di vista di design in una maniera eccellente. Quindi, utilizzando questo, il sogno di un architetto o di un lighting designer è quello di avere una luce che non si veda. Che è un po' il contrario del design, se vogliamo, sì. Che però sia completamente integrata nell'architettura e che ci permetta di avere una luce senza capire dove viene la sorgente. Quindi tra LED e design, tra LED e arte c'è un rapporto abbastanza stretto. Fortissimo. Però ci sono anche alcune criticità del LED. Quali sono? Per esempio, una criticità è quello della qualità cromatica nel tempo. Se non si scelgono delle sorgenti LED eccellenti, queste sorgenti nel corso del tempo possono presentare delle cromie diverse e quindi dare un fenomeno sostanzialmente di luce più calda o luce più fredda, sempre nell'ambito delle tonalità del bianco. E questo deve essere regolamentato utilizzando delle ottiche che possono ridurre i flussi e possono controllarli meglio, così come anche dei driver elettronici che possono permettere di evitare quei fenomeni che noi sappiamo quando ci sono altre interferenze elettroniche in giro per la stanza, per esempio lo sfarfallio, piuttosto che altri fenomeni. Certo, questo è un aspetto importante, cioè la qualità dell'apparato luminoso, sì, LED è molto importante, più del mondo vecchio a incandescenza. Assolutamente, perché prima poi di fatto si facevano più o meno dei bei oggetti e poi veniva inserita la lampadina. Oggi da un certo punto di vista, anche in questo caso, questo vale per altre tecnologie, mentre una volta la lampadina era una cosa facile da capire, molto semplice, oggi questo mondo, anche il mondo dell'illuminazione, è molto complicato, cioè bisogna essere esperti. Assolutamente, c'è un contenuto tecnologico importantissimo. Tra l'altro, pensate che noi portiamo nei nostri uffici decanati tra le 4.000 e le 5.000 persone l'anno, quindi tra architetti, tra lighting designer, tra i cosiddetti stakeholder valley, anche studenti, per favorire la cultura della luce. Sì, questo è un aspetto importante che vale in generale, e soprattutto i distributori, gli installatori devono studiare e capire quali, perché poi è anche un lavoro di creatività. Se uno comprende molto bene la tecnologia, dopo si fa venire delle idee per installare al meglio questi sistemi. Tornando ai dati, sì, questo è un tema molto importante. Tu dicevi prima: non sappiamo chi vincerà, cioè se il mondo che voi rappresentate, di tante altre aziende che producono sistemi di illuminazione che con sensori a bordo possono trasformarsi in una parte importante della internet degli oggetti e quindi diventare un player importante in questo mondo di sensori che raccolgono dati, elaborano i dati e restituiscono informazioni, oppure l'altro mondo che viene dai dati che si appropria dei vostri strumenti. È assolutamente così, e in questo momento è una risposta senza, cioè una domanda senza risposta, perché obiettivamente coloro che gestiscono i dati potrebbero appropriarsi tra virgolette della luce o viceversa. La realtà è che secondo me invece possono coesistere tranquillamente questi due mondi, soprattutto in questa fase di grande sperimentazione, perché è un mondo che può mettere paura ma che può essere molto invece interessante, perché non ci sono applicazioni standard, non ci sono processi standardizzati e quindi è tutto un mondo in grande evoluzione e si può inventare. Sicuramente le luci sono già installate, sicuramente le luci sono presenti nelle infrastrutture, sicuramente le luci possono essere collegabili con i sensori che dicevamo prima, sostanzialmente dei sistemi di comunicazione, che siano poi Wi-Fi, Li-Fi, Bluetooth, eccetera. Oggi c'è un mondo di sperimentazione con la sensoristica e quindi io credo che questo mondo della connettività sarà un mondo molto affascinante da esplorare. Tradurlo in business in questo momento è un po' più un punto di domanda, ma ognuno di noi produttori fa delle sperimentazioni, dei progetti pilota per cercare di capire cosa fare, e i due di cui ti ho parlato in precedenza, quindi Cappella di Scrovigni a Padova ma anche la Royal Institute of Art a Londra, sono degli esempi significativi di come si possa migliorare l'utilizzo della vita di un tecnico piuttosto che di un utente normale con la tecnologia, perché non c'è reale innovazione senza ovviamente un miglioramento poi delle condizioni dell'utilizzatore finale, che sia vero. Certo, perché è difficile trasformare questo in business? Cioè questa internet degli oggetti che di cui noi parliamo tanto, che raccoglie dati, che elaborano dati, perché è difficile trasformarlo in business? C'è sempre il problema del bil denaro, no? Mm-hmm. È chiaro che un apparecchio a LED costa di più di un apparecchio con sorgenti tradizionali, ed è chiaro anche che costa però di più rispetto a un apparecchio a LED che utilizza delle componenti ovviamente non di grandissima qualità. Abbiamo visto che non è solamente la sorgente LED che ha un costo maggiore, anche se poi con la diffusione dei volumi si sta abbattendo questo tipo di costo, ma poi c'è il costo del riflettore, del diffusore, dell'ottica, del driver elettronico. Quindi alla fin fine, secondo noi, quello che è importante è non parlare di una comparazione nuda e cruda, se non c'è la cultura della luce, di un costo in valore assoluto di un apparecchio, ma di un ritorno degli investimenti. Su questa logica, per esempio, ci stiamo investendo molto, e questo soprattutto nell'illuminazione stradale viene sempre più compreso, per cui non è tanto il costo iniziale, ma quel risparmio che un apparecchio di qualità ti permette di avere nel tempo, e quindi il ritorno agli investimenti, un payback. Noi, per esempio, nelle ultime installazioni stradali che abbiamo fatto sia in Italia che all'estero, abbiamo evidenziato e poi realizzato degli investimenti che sembravano inizialmente molto costosi, ma che poi hanno avuto ritorno agli investimenti inferiore ai 2 anni, che sarebbe l'ideale per ogni investitore. Certo. Che cosa potreste proporre ai vostri clienti, che ne so, in un aeroporto, in un grande centro commerciale, a proposito di sensori e di dati? Perché se volete trasformare questo in business, dovete dare un valore aggiunto. Certo. E dire: guarda, io ti fornisco la luce, l'illuminazione, la lampada, ma ci sono tutta una serie di sensori che si connettono a internet e ti danno questo tipo di informazioni. Ma sì, perché per esempio un gestore dell'aeroporto potrebbe, con dei sensori integrati all'interno delle luci presenti nell'aeroporto, è chiaro, dare le indicazioni per esempio sul traffico, la frequenza, addirittura che cosa i consumatori possono guardare muovendosi da un ufficio a un altro oppure da uno shop all'altro. Quindi questa tecnologia esiste ed è già disponibile. Il tema è capire come investire e poi chi gestirà il dato, e anche cercare di capire se effettivamente, non essendoci poi procedure standard e standardizzate, quale sarà ovviamente la tipologia che vincerà nel futuro. E questo è un po' il tema della discussione, per cui si fanno delle applicazioni pilot, se le studiano e poi cerchiamo di capire se una tecnologia o una procedura standard vincerà sull'altra. Bene, oltre a Leonardo, l'ultima cena a Scrovegni, avete in progetto qualcosa a breve, nei prossimi mesi, anni? Ti anticipo che l'anno prossimo andremo a illuminare i capolavori del Tintoretto presenti a Venezia alla scuola di San Rocco, per cui ne siamo molto orgogliosi, e quindi quello sarà un altro degli investimenti principali del nostro programma Light is Back. Bene, grazie ad Andrea Sasso per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie. È tutto per questa puntata di 2024, come sempre grazie per la vostra attenzione. Prima di chiudere, un annuncio che riguarda un master della Business School del Sole 24 Ore, ma visto che riguarda il master che è realizzato in collaborazione con Radio 24 ed RDS, vogliamo parlarne brevemente. Il 25 gennaio inizierà questo nuovo master in Radio Content and Management in formula part-time, organizzato appunto dalla Business School del Sole 24 Ore. È un master dedicato e pensato a chi lavora o chi sta iniziando oppure vorrebbe lavorare nel mondo della comunicazione radiofonica. È un percorso formativo che dura 3 giorni al mese per 8 mesi, appunto in formula part-time, con sia lezioni in aula che anche le lezioni e sessioni online. Allora, un ascoltatore di Radio 24, e in questo caso un ascoltatore di 2024, potrà beneficiare di una borsa di studio che copre il 50% del costo di partecipazione. Per candidarsi e per maggiori informazioni scrivete a info.bs24, che sta per Business School, quindi ricapitolo, info.bs24@ilsole24ore.com. Trovate maggiori informazioni, anche la brochure del master, su www.bs.ilsole24ore.com. Magari se chiedete informazioni oppure se volete candidarvi per questa borsa di studio, citate 2024, così quando arriva la richiesta alla Business School del Sole 24 Ore diranno: ah, ma guarda, questa mail è arrivata grazie alla segnalazione di 2024. Poi speriamo che arrivino molte segnalazioni, molte richieste di informazioni, così dicono: ah, ma quante persone che ascoltano 2024. Va bene, dopo questi consigli io vi ringrazio nuovamente per l'attenzione anche per questa settimana. Ci risentiamo la prossima. Ricordate il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, mi trovate anche su Facebook oppure su Twitter. Portate pazienza se non rispondo subito alle vostre email, a volte alcuni fanno anche solo delle considerazioni, quindi non sempre do una risposta, perché se non c'è una domanda, poi ci sono anche delle domande a cui non so rispondere. Ci risentiamo la prossima settimana.